Lo sfruttamento lavorativo ha significato il deterioramento della salute, del benessere e del morale per miliardi di persone nel corso dei secoli. Una prima regolamentazione pubblica per la limitazione dell'orario giornaliero di lavoro fu istituita in Gran Bretagna nel 1496, ma non si applicava. Spesse volte le ore andavano ben oltre le 15. L'uso del lavoro minorile, poi, era comune. Bambini tra i 9 e i 10 anni venivano rimossi a forza dai loro letti sporchi per miseri compensi. Un minimo sostentamento in cambio di doveri lavorativi da prestarsi dalle 4-5 del mattino fino alle 10-11 di sera. Negli Stati Uniti, similmente, la giornata lavorativa era fissata a 16 ore al giorno. Per arrivare a 10 vi fu un primo grande sciopero condotto da falegnami nel 1791. Lì a pochi anni si creò un movimento per presentare una petizione al legislatore di New York in contemporanea alla scia inglese. Le prime proteste organizzate erano infatti partite in Gran Bretagna e non solo come rivendicazione operaia, ma in forma di proposta da parte di alcune personalità socialiste di spicco. Tra gli altri c'era Robert Owen, che sollevò la domanda per una diminuzione a 10 ore lavorative giornaliere e la istituì nella sua stessa impresa a New Lanark. Era il 1810. Fu lui, pochi anni dopo, a formulare lo slogan che diventò internazionale delle 8 ore di lavoro, 8 di svago e 8 di riposo. In questa prospettiva socialista di riorganizzazione del lavoro venivano contemplati miglioramenti non solo dal punto di vista del carico di ore, ma anche in direzione di un aumento dei salari, condizioni di lavoro che guardassero alla salute degli operai e contemplava pure la possibilità di una loro educazione. Questa istanza in realtà poteva essere accolta da possidenti come Owen per ragioni non solo filantropiche, dal momento che la riduzione delle ore lavorative avrebbe potuto garantire maggiore attenzione, meno equipaggiamenti nelle mansioni da svolgere e quindi anche una maggior qualità della produzione. Quali che fossero i motivi, nel 1830 la domanda per una riduzione delle ore lavorative era ormai diffusa. Si creò un movimento laburista che presentò nel 1942 al Parlamento inglese una serie di proposte. Ci volle ancora oltre mezzo secolo perché quelle proposte venissero valutate tramite concreti atti legislativi. In generale nel mondo perché venisse attuato il passaggio da una sporadica e libera applicazione di condizioni lavorative più sopportabili ad una loro ufficializzazione su scala nazionale attraverso il varo di disposizioni per una regolamentazione delle stesse. Si dovettero aspettare decenni, se non oltre un secolo in alcuni paesi. E fu un processo che ovunque richiese un'intensificazione delle contestazioni, senza le quali certi obiettivi sarebbero stati lontani da raggiungere. In Inghilterra venne varata prima soltanto una limitazione a 10 ore nel 1847 ed esclusivamente per donne e minori di 18 anni, estendendo quindi la tutela per i bambini già presente nel Factory Act del 1833. Mentre in Francia riuscirono ad ottenere 12 ore giornaliere grazie alla rivoluzione del febbraio del 48. I primi successi furono raggiunti negli stessi anni dal movimento neozelandese e da quello australiano, che riuscirono ad ottenere dalla classe politica la riduzione alle 8 ore. In tutti gli altri paesi del mondo la situazione rimaneva disomogenea in una maniera che veniva decisa sempre dalla classe padronale, per cui si costituì un'associazione internazionale dei lavoratori che aveva come punto principale l'esigenza di quelle 8 ore. Si arrivò così al congresso di Ginevra nel 1866, durante il quale l'Associazione Internazionale dei Lavoratori assunse la richiesta di una giornata di 8 ore come condizione preliminare, senza la quale tutti gli ulteriori tentativi di miglioramento ed emancipazione della classe lavoratrice ne sarebbero conseguiti abortiti. Al 4° convegno della Federazione Americana del Lavoro, tenutosi nel 1884, è stata poi prefissata la data del 1° maggio, di lì a 2 anni venire, come termine entro il quale il movimento si sarebbe impegnato a garantire il conseguimento di quello che ormai veniva reclamato come un diritto, e andando a sciopero nel caso le proprie giurisdizioni l'avessero respinto. La stampa iniziò a descrivere il movimento come un delirio di piccoli pazzi, oltraggioso e irrispettoso, e affermava che era lo stesso che chiedere di ricevere uno stipendio senza rispettare alcuna ora lavorativa. Now repeat after me. Bugger off. Bugger off. Sod. Sod. Bloody. Bloody. Queste mobilitazioni arrivano al 1° maggio del 1886, appunto, che era stato chiamato dalla Federazione Americana. 200.000 lavoratori in tutti gli Stati Uniti iniziarono lo sciopero, mentre altri 200.000 conquistarono le 8 ore con la semplice minaccia di fermarsi. Ok, you're in. Let's smash things up! But around a few years now, you think we might have changed. A Chicago le condizioni di lavoro industriale erano peggiori che nel resto degli Stati Uniti, per cui gli scioperi continuarono anche i giorni successivi. Quel 1° maggio fecero picchetto e si incontrarono in protesta nella città circa 50.000 lavoratori. Senza intendere rinunciare alle loro iniziative, nonostante un crescente clima di asserragliamento poliziesco. Il 4 maggio, nei Market Square, August Spears, in attesa di un relatore, introdusse alle migliaia di presenti un resoconto di ciò che era accaduto il giorno precedente e di come stesse degenerando la situazione. Il 3 marzo, infatti, proprio in quell'isolato, vi erano state dimostrazioni contro la McCormick, fabbrica di miete e trebbie, e in risposta all'intensificarsi della protesta, dal momento che il padrone ignorava le richieste dei propri lavoratori, per il lancio di alcuni sassi contro il muro, la polizia aveva ricevuto la licenza di sparare contro il presidio, uccidendo alcuni operai. Now put them all together. Bugger off, you bloody sod. Bugger off, you bloody sod. Il giorno seguente, quindi, migliaia di persone stettero radunate in Haymarket per impedire azioni di crumiraggio, discutendo della faccenda. August era un attivista di origini tedesche che pubblicava insieme ad alcuni compagni su giornali come l'Arbeiter Zeitung, il Vorbote e il Fackel, che avevano larga diffusione tra la comunità operaia tedesca della città in relazione all'attività dei sindacati, ma erano affini anche a giornali in lingua inglese, boema e scandinava. The death to violence, we can be shut down. You may stop us physically, but ideas will be around. Think our hopes will be forgotten when we're dead and gone, but just like Martin Luther King, the dream will still live on. Ideas are bullet through. You might kill me. Ideas are bullet through. But the dream will become reality. Eradicate the woman and exterminate the man. We've watched you throughout history and for your master plan. Know how you operate, we witness your attacks. We're in it till the end, yeah, no retreat, no turning back. Ideas are bulletproof. You might kill me. Ideas are August prese parola innanzitutto per avvertire che era appena arrivato uno stuolo di cingolati nella stazione lì accanto, Des Plaines Street. In alcuni settori sembra prevalere l'opinione secondo cui questo incontro sia stato convocato allo scopo di inaugurare una rivolta. Ecco perché questi preparativi bellicosi da parte della cosiddetta legge e ordine. Tuttavia, lasciatemi introdurre che questo incontro non è stato convocato a tale scopo. Lo scopo di questo incontro è di spiegare la situazione generale del movimento delle 8 ore e di far luce su vari incidenti in relazione ad esso. Per più di 20 anni i lavoratori salariati di questo paese hanno implorato e pregato i loro padroni, i signori delle fabbriche, di ridurre i loro oneri. È stato vano. Hanno sottolineato il fatto che oltre 1 milione di mani disponibili e forti erano in uno stato di indolenza forzata e di fame, che per aiutarli a ottenere un impiego non sarebbe stato solo consigliabile, ma anzi necessario, ridurre le ore giornaliere di fatica di coloro che hanno avuto la fortuna di aver trovato un acquirente per i loro muscoli, per il loro cervello. I padroni di questa terra però li hanno trattati con disprezzo, li hanno condannati al vagabondaggio ogni volta che hanno insistito. Le legislature sono state invocate, una petizione è susseguita all'altra, ma senza risultato. Nella fabbrica dei morti ha lavorato i nostri padri per costruire il vuoto che sentiamo in fondo al cuore. Infine, la condizione dei produttori diseredati è diventata insopportabile. Vedendo che né il capo né la legge avrebbero concesso loro nulla, si sono organizzati allo scopo di aiutarsi, una soluzione saggia e prudente. In tutta la terra vediamo schiere di produttori che non chiedono elemosina, chiedono semplicemente che 8 ore costituiscano d'ora in poi una normale giornata lavorativa. E cosa rispondono gli estorsori? Mandano la polizia, i protettori di queste istituzioni libere e gloriose. Mandano la polizia per metterci a tacere. Senza dubbio siete al corrente che proprio qui, ieri, sono stati assassinati i vostri fratelli. Signor McCormick, che ha fatto? Ha riferito a un giornalista del Times che siamo noi responsabili di quel massacro commesso dalla più nobile polizia di Chicago. Rispondo a questo. Direi che questo McCormick è un famigerato bugiardo. La stampa capitalista, come rispettabile gentiluomo McCormick, urla che gli anarchici sono responsabili delle azioni di violenza ora commesse in tutto il paese. Se ciò fosse vero, si dovrebbe concludere che il paese era pieno di anarchici. Ma la stessa stampa informa che gli anarchici sono molto pochi. L'attacco a McCormick, ieri, è stato forse fatto da anarchici? Ero stato invitato dall'Unione Centrale del Lavoro a tenere una riunione dei braccianti di legname sul mercato nero. Sono uscito ieri all'ora stabilita, verso le 3 del pomeriggio. C'erano almeno 10.000 persone riunite. Quando mi si è presentato di rivolgermi a loro, alcuni polacchi o bohemien hanno gridato «È un socialista!» Fra un busto generale e derisione nei miei confronti. Eppure ho parlato comunque, la folla è diventata calma e 15 minuti dopo mi hanno mandato come delegato dai loro capi. Tuttavia, queste persone non sono socialisti anarchici. Questi atti di violenza sono la naturale crescita dell'attuale sistema industriale e ognuno è responsabile di quello che sostiene e di questa violenza se sostiene tale sistema. Podemos verlo, vivirlo e sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Cosa significa quando la polizia si permette di circondarci? Quando la milizia è bellicosa, pronta per la repressione dei nostri reclami? A che cosa servono le pistole? Questa dimostrazione militare di barbarie è organizzata per proteggerci. Quando hay invasión en su propria casa, violenta es la venta de tus derechos y de hecho, es un robo el cobro en educación, salud y techo, violento es el apropiamiento. I padroni hanno percepito il malcontento, a loro non piacciono gli schiavi scontenti e se siete testardi vi forzeranno. Guardate l'omicidio dei vostri fratelli a McCormick ieri. Che cosa hanno fatto? La polizia dice che era la folla ad essere pericolosa, armata fino ai denti. Come bambini ignoranti si abbandonano allo sport innocuo di bombardare il macello di McCormick con le pietre. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos. E il lancio di poche pietre è stato pagato con il loro sangue. All'improvviso scoppia una bomba proprio in mezzo alla pattuglia che aveva circondato il presidio, portando alla morte di 7 poliziotti, solo uno sul colpo. Come se la guarnigione di Chicago fosse preparata a questo, iniziò a sparare all'impazzata contro la folla, in quel momento pacifica, uccidendo circa 4 uomini e ferendone 200. Nonostante nei mesi a seguire non fu riscontrata alcuna prova su chi tra i manifestanti avesse potuto lanciare quella bomba, ed anzi si alzarono ragionevoli sospetti che quell'attentato fosse stato piuttosto una macchinazione dello stesso capo di polizia di Chicago, 8 anarchici, esponenti del movimento, benché si fosse riscontrato che solo 3 di loro erano presenti nella piazza al momento dello scoppio della bomba, furono portati a processo e nel giro di un anno e mezzo Nib fu condannato a 15 anni di reclusione, mentre per Ling, Parsons, Engel, Fischer, Spies, Filden e Schwab il tribunale comminò la pena di morte. Per tanto se solo avrà guerra, guerra, guerra, guerra. Violento a tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. No me hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho, es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar, pero eso no sale en la prensa. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. La mia offesa è la tua accusa. Il mio presunto crimine, la tua storia. August si ritrovò a dover proseguire il suo discorso a processo davanti a una giuria farsesca composta da uomini d'affari e persino un parente di uno dei poliziotti morti. Lo Stato afferma che ho pubblicato articoli sulla fabbricazione di dinamite e bombe. Fatemi vedere un quotidiano in questa città che non abbia pubblicato articoli simili. Ricordo in modo molto chiaro un lungo articolo nel Chicago Tribune dell'85. Il documento conteneva una descrizione con disegni di diversi tipi di macchine e bombe infernali. Ma da quel momento il Times ha spesso pubblicato articoli simili sull'argomento e alcuni degli articoli dai generali Molyneux e Fitz John Porter, in cui l'uso delle bombe alla dinamite contro i lavoratori in sciopero è raccomandato come l'arma più efficace contro di loro. Posso sapere perché i redattori di questi documenti non sono stati incriminati e condannati per omicidio, come state facendo con noi? E perché avrebbero sostenuto l'uso di questo agente distruttivo contro la rabbia comune? Perché il redattore del News non è stato accusato in questo caso? In suo possesso è stata trovata una bomba. Oltre a ciò, Stone ha pubblicato a gennaio un articolo che forniva informazioni complete sulla fabbricazione di queste. Invece il mio impegno a favore di milioni di diseredati e slegati, le mie attività di divulgazione di insegnamenti economici, sociali, la promozione dell'educazione dei lavoratori salariati, vengono qui dichiarati cospirazione contro la società. L'argomento principale di Greenell contro gli imputati sembra essere che eravamo stranieri, non eravamo cittadini. La parola società in questa corte viene saggiamente sostituita con lo Stato. È sempre stata l'opinione delle classi dirigenti che le persone debbano essere tenute nell'ignoranza perché perdono la loro servilità, la loro modestia e la loro obbedienza ai poteri dello Stato. Così come l'educazione di uno schiavo nero, un quarto di secolo fa, era un reato. Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como la wea, cuando cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sano. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Μαθαίνεις πολιτή, πάγκο το κράτος μας στέλνει. Λαοί χωρισμένοι, δεμένοι, κλεισμένοι σε σύνορα. Σκέψεις με φήμωτρα, όνειρα ξύλινα. Δούλεψε αύριο και ξεχνά το σήμερα. Ξεχνά ότι ζεις κι ότι έχεις αισθήματα. Ξεχνά την άρνηση κι ότι είμαστε άνηση. Αυθόνοι άνεργοι κι έρχονται σαν αιτή. Σε μια παράσταση, μια παροδία. Δημοκρατία είναι ολιγαρχία. Αυτοί διδάσκουνε την ιστορία. Πίστεψτε όλη πατρίδα, θρησκεία. Τάξη, ασφάλεια και ησυχία. Δούψα για δόγμα και επιβολή. Είναι σιωπή ή αλλιώς φυλακή. Perché dunque l'educazione dei lavoratori di oggi è considerata da una certa classe un'offesa allo Stato? Dalle testimonianze delle accuse si dovrebbe concludere che nei nostri discorsi e pubblicazioni non abbiamo predicato nient'altro che distruzione e dinamite. In tutti i casi storici di questo tipo la verità viene pervertita dai sacerdoti del potere stabilito. Cosa abbiamo detto nei nostri discorsi e pubblicazioni? Abbiamo interpretato le persone nelle loro condizioni e relazioni nella società. Abbiamo spiegato i diversi fenomeni sociali, internazionali e le leggi e le circostanze sociali in cui si verificano. A titolo di indagine scientifica abbiamo provato e portato incontro alla loro conoscenza che il sistema dei salari è la radice delle attuali iniquità sociali. Abbiamo inoltre affermato che il sistema salariale, come forma specifica di sviluppo sociale, dovrebbe, per necessità di logica, lasciare il posto a forme superiori di civiltà, come il socialismo. Che sia stata accettata questa o quella teoria, questo o quello schema, riguardo agli accordi futuri, non era una questione di scelta, ma di necessità storica. E per noi la tendenza al progresso sembrava essere l'anarchismo, cioè una società libera, senza re, ma nemmeno classi. Una società in cui ognuno possa essere sovrano di se stesso, in cui la libertà e l'uguaglianza economica di tutti avrebbero fornito un equilibrio irremovibile. Un ordine sociale senza che questo venga tenuto intatto da club privati e dalla pistola del poliziotto. Non è probabile che gli onorevoli Bonfield e Greenell possano concepire una società libera senza prigioni, patibolo o avvocati di Stato. In una tale società probabilmente i signori di questa corte non riuscirebbero a trovare un posto per se stessi, ed è questo forse il motivo per cui l'anarchismo è una dottrina dannosa. I loro privilegi sono loro cari quanto la vita stessa. Sono così comodamente situati sotto il sistema prevalente che aborriscono naturalmente e temono anche il minimo cambiamento. E ogni cambiamento minaccia questi privilegi. L'accusa, per convincere la giuria della pericolosità sociale degli imputati, estrapola alcune parti degli articoli prodotti dai compagni, uno proprio dall'Arbeiter Zeitung. Leggi e privilegi di classe sono trasmessi come una malattia ereditaria. Questa non era che una citazione dal Faust di Goethe e non rappresenterebbe forse la verità? In alcuni casi i vostri privilegi potrebbero anche conciliarsi con un po' di elemosina, ma che influenza può avere un aiuto del genere su condizioni sociali che invece perpetrate scientemente? Nessuna, assolutamente nessuna. Potreste anche ammetterlo, signori, perché non potete indicarmi un singolo esempio. I mezzi di produzione sono quindi entrati nelle mani di un numero sempre crescente. Mentre i produttori reali, attraverso l'introduzione di macchinari privati dell'opportunità di lavorare, e allo stesso tempo diseredati dai doni della natura, sono stati consegnati a pauperismo, vagabondaggio, il cosiddetto crimine e prostituzione. Gli atti di violenza dipendono solo dall'innata crescente impostazione del sistema in cui viviamo e lavoriamo. E ognuno è responsabile di ciò che sostiene, di quella violenza se sostiene tale sistema. Di nuovo non è stata detta una sillaba su una prospettiva anarchica durante l'incontro di Haymarket. In quella riunione è stato discusso esclusivamente il tema molto popolare di ridurre le ore di lavoro. Eppure siamo in 8 qui, anarchici, ad essere sotto processo. Credo con Buckle, Paine, Jefferson, Emerson, Spencer e molti altri che lo stato delle caste e delle classi, lo stato in cui una classe domini e viva sul lavoro di un'altra e chiami questo ordine, sì, credo che questa sia una forma barbara di organizzazione sociale, con il suo saccheggio e il suo omicidio legalizzato, e credo che sia destinata a morire per fare spazio a una società libera, di associazione volontaria o fratellanza, se si vuole. Potrete anche pronunciare la sentenza su di me, ma il mondo saprà che nel 1886, nello stato dell'Illinois, 8 uomini furono condannati a morte perché non avevano rinunciato alla comune ricerca della libertà e della giustizia. Quando l'associazione dei lavoratori, nonostante le rotture, si riunì in una seconda internazionale, si pensò di dedicare il 1° maggio al ricordo di queste lotte, così come dei compagni che non poterono vederne gli esiti, uniti con la pena esemplare di morte capitale. Le lotte per le 8 ore di lavoro, represse così nel sangue, ebbero i primi riscontri costituzionali solo nel secolo seguente. Fu la Finlandia ad introdurre per la prima volta nel 1907 la giornata di lavoro ad 8 ore e nella Russia sovietica fu varata con un decreto a 4 giorni dalla rivoluzione d'ottobre. Seguirono la Polonia e la Germania nel 1918, l'Ungheria, il Portogallo nel 19. Quello stesso anno in Francia, Clemenceau accolse la richiesta delle 8 ore per evitare la disoccupazione e soprattutto ridurre il sostegno comunista. E in Spagna, a Barcellona, fu ottenuta dopo 44 giorni di sciopero generale con oltre 100.000 partecipanti che paralizzarono letteralmente l'economia catalana. Anche se non fu la prima volta, già nel 1873 vi erano stati scioperi intensi in cui gli anarchici avevano preso larga parte. Dalla rivoluzione messicana, tra il 10 e il 20, si produsse una costituzione che conteneva un articolo che sanciva per i lavoratori il diritto di organizzare sindacati e scioperare. Il giorno di 8 ore, un salario di sussistenza e una prima forma di protezione sociale per donne e bambini. You're wrong. l'ira funesta di chi sparge l'odio al vento per raccogliere tempesta di chi resta senza lacrime e non aspetta il salvatore del tragico tramonto verso il nulla. Creatore, Itaca è lontana, ma non temere l'estrigon, il peggio per l'impero. E che gli è il pessimo, una marea di scheletri nascosti nel tuo armadio. Bastoni e ferri al cielo contro la vostra gladio. Godi la felicità che è la tua, sì è l'unica, finché la serpe in seno non prova a capovolgerla. Stringila tra le mani e in un attimo ti accorgi che chi rompe paga e non ti lascia neanche i cocci. Stacci, zì, stai stringendo il nulla, una culla di miseria, un inferno nella folla. Insetto nada insisto, tutto il resto è noia. Sbrigati a sparare, ad armare la tua gioia. Nitro, grinder, a.k.a. l'estrigon, lessico dannato. Imparato al classico per risputarlo in faccia all'elite in doppio petto, con la puzza sotto al naso, perché il corpo putrefatto. C'ho la scorza dura, puoi provare anche a colpirmi, a fermarmi. È rabbia pura che vi lascia inermi. Abituato a schiaffi al cuore, morsi di tarantola. La vita mia spiandola, ti sembrerà ben candida. Neurotossine giugulare aperta, una mara scoperta. A morte la tua scorta se la strada si rivolta. Giornata giù il serri, onora chi diserta. Onora chi diserta. Gli anarchici, non essendo mossi dall'ambizione politica, bensì da una tensione etica, non si trovano al margine della società per vantare una radicalità sul mercato della politica, ma perché è lì che si scaglia lo scontro fra l'ordine di questo mondo e il disordine delle loro passioni. Quando esprimono ciò che pensano, non lo soppesano prima sul bilancio della convenienza in termini di consenso, e non essendo affatto attratti dagli eremi solitari, più costretti a subirli che a sceglierli intenzionalmente, non si limitano ad abbandonare questo mondo con le sue sirene, ma invitano anche gli altri ad andare al di fuori, essendo l'alternativa quella di rimanere intrappolati dentro le istituzioni. E da qui, da questo altrove rispetto alle istituzioni, cercano di organizzarsi per andare all'assalto. La diserzione, non mirando ad una bucolica comune alternativa, costituisce un primo passo verso la rivolta. La diserzione è abbandono, niente più uniformi, ordini, marce, addestramenti, saluti alla bandiera, niente più caserme, niente più scatti sugli attenti. Le righe si rompono e non si ricompongono. Dove vanno i disertori? Nei boschi, negli spazi dove il nemico non mette piede, e con sé non portano dietro nulla della loro vita precedente, nulla se non qualche strumento utile alla bisogna. A differenza del passato, in cui esisteva ancora la possibilità di uno spazio fisico sconosciuto dove trovare rifugio ed organizzare non solo un modo diverso di vivere, ma anche un contrattacco, oggi è l'intero pianeta ad essere sotto l'occhio vigile del potere. Non esistono più territori impenetrabili, terre incognite popolate da fiere selvagge, come ben sa Theodor Kaczynski. Anche nelle metropoli, i quartieri dove la polizia non osa entrare sono sempre meno. Il bosco del disertore, quindi, non è più tanto a portata di mano, quanto di mente. È un immaginario che di fronte ad una realtà totalmente prodotta dall'economia e dalla politica non può che reagire con una indifferenza creatrice. Non si chiede nulla di ciò che è, perché si vuole dare vita a ciò che non è mai stato. Είμαι Βαλκάνια, όσο από οικογένεια φτωχική. Μεγάλωσα με τσιγκάνους και μετανάστες μαζί. Μη με ρωτήσεις τι γλώσσα μιλώ, δεν είναι αυτή. Έχω παππού από Τουρκία και ρίζα σλαβική. Μια γιαγιά από Σερβία, ρίζα σεραϊκή. Έχω λευκή επιδερμίδα και πατρίδα τη γη. Και μαζί τους έτσι να σου πω το όνομα μου το μικρό. Θα σου έλεγα πως έχω χίλια ονόματα να σου πω. Είχα τη λάσπη για σπίτι μου και νερό τη βροχή. Δεν επιλέγει ένα παιδί φτωχό για να γεννηθεί. Οι γονείς μου μου λέγανε από μικρό παιδί ότι φτωχή το μόνο που έχουμε είναι η μουσική. Ακόμα κι αν η αλυσίδα πρόκειται να χαθεί, η μουσική δεν γίνεται ποτέ να ξέρει ζωθεί. Είναι στοιχεία που μπλέκουν στο πέρασμα των καιρών, μοσαϊκό πολλών υπέροχων μονάδικων λαών. Μιλώ για όλους τους ανθρώπους της γης, τα χίλια χρώματα που έχουμε. Non l'ambizione politica di giungere ad un'intelligenza condivisa attraverso il consenso, bensì la tensione utopica di aprire altri ed infiniti orizzonti attraverso la rivolta. Tensione che, se compare in contesti tanto diversi, non può essere liquidata come fedeltà ad una tradizione ideologica. Gli appartenenti alle tribù primitive dell'Amazzonia, quando vedono un giornalista, non si fanno intervistare, gli tirano contro le frecce o gli voltano le spalle. Se un poeta individualista anarchico dell'inizio del Novecento, fiero di vivere ai margini della società, si scagliava contro la mediocrità delle rivendicazioni ventriste, un poeta tuareg del 2000 afferma che i suoi versi pieni di collera si battono contro l'impensabile, contro il ventre, contro la logica dello stomaco. Per i tuareg, la vita è la lotta contro il dogma della morte, ed il loro scopo non è di rovesciare il re, che rappresenta la morte, per prenderne il posto, ma di porre la vita al posto del re. Il Comitato Invisibile ritiene che il tessuto etico del movimento anarchico spagnolo dell'inizio del XX secolo fosse dato dal legame operaio e dell'attività dei suoi partecipanti. Ma da cosa era dato quel legame? Cosa spingeva quegli uomini e quelle donne a condurre quella vita se non un'idea, una comune visione del mondo? Non si battevano per provare sensazioni intense o consistenti, ma per costruire un mondo che rispecchiasse ciò che avevano in testa e nel cuore. L'idea di un mondo privo di rapporti di potere era affinità. Un'idea diventata carne e sangue pulsante. Si può qui cogliere tutta la differenza fra un'azione che nasce dal basso sulla spinta di un'etica vitale e quella che trova origine in alto, da una politica strategica. Nel primo caso è ogni singolo individuo, ogni essere umano in carne ed ossa ad affrontare la vita in base alle proprie idee, valori e desideri. E più questi sono chiari e approfonditi, più la sua azione può essere feconda. Nel secondo caso, invece, prevalgono le manovre, le macchinazioni, gli intrighi, per cui la moltitudine diventa manovalanza, pedine da spostare sulla scacchiera della loro strategia. La riflessione e la critica vanno evitate perché lo scopo non è di fare in modo che ognuno diventi responsabile di se stesso. Al contrario, le pedine si spostano con più facilità se sono prive di coscienza. Basta che abbiano una percezione comune, che imparino a memoria i ritornelli dell'intelligenza condivisa. Anche qui bisogna decidersi. Non si può da un lato cantare la poesia del gesto volontarista e dall'altro prescrivere la scienza del processo determinista. Questo mondo è costruito, forgiato, organizzato dalla e sulla autorità che riflette in ogni suo aspetto. È presente nella sveglia mattutina, nel semaforo che ci tiene in coda, nel denaro che portiamo sul cuore o sul culo, in tutti i permessi che dobbiamo chiedere e negli obblighi da adempiere. L'autorità è nelle città in cui viviamo, nel cibo che mangiamo, nell'aria che respiramo. Scorre nel nostro sangue tramandata da secoli di servitù volontaria. Cosa riproduce e perpetua questo inferno sulla terra se non l'attività quotidiana dei suoi condannati? Perciò, a meno di ritenere che il mondo in cui viviamo sia il risultato naturale dell'esistenza umana, oppure di pensare come Marx che questa nave carica di pazzi sospinta dal vento andrà ugualmente incontro al suo destino, giacché il suo destino è la rivoluzione che ci sovrasta, bisognerà decidersi ad affrontare il fatto che la condizione per la sua riproduzione è la disponibilità degli individui a continuare ad alienare la propria esistenza. Sottrarre quella disponibilità è minare questa alienazione, questa diserzione. Ciò cosa significa? Che chi ritiene necessario sbarazzarsi dell'obbedienza e del potere farebbe bene a smettere di obbedire e di comandare e iniziare ad incitare gli altri a fare altrettanto. Chi pensa che i partiti siano nocivi farebbe bene a smettere di votarli e di applaudire alle loro iniziative. Chi pensa che il linguaggio non è neutro ed è modellato sulla grammatica del potere farebbe bene a prenderlo in contropelo, a bonificarlo dei suoi luoghi comuni. Ma non si può, i rapporti sociali funzionano così da sempre. Non si può, bisogna farsi amici partiti ed entrare a farne parte per sfruttarne l'influenza. Ma non si può, la gente non è abituata. Non capirebbe. Sono tanti i motivi per non disertare, i tentativi di convincerci che il mondo che ci circonda ci attraversa, che ciò che abitiamo ci abita, che quello che ci circonda ci costituisce, che noi non ci apparteniamo, che non dovremmo pretendere di riuscire finalmente a riprendere quanto ci sfugge, ma di imparare ad abitare meglio ciò che è qui, cioè la caserma con la sua gerarchia, la sua disciplina, i suoi ordini e tutta la sua tristezza. No, no, noi partiamo esattamente dal presupposto contrario, che occorra dare vita al nostro mondo, che se è vuoto lo è solo di potere. Luchadores de la paz, puesto alto a su brillante, están los pocos rebuscantes, pisotean la marea, los impuestos golpean. bebé, antifuerza pública, anti-BPP, antifuerza pública, anti-BPP, antifuerza pública, anti-BPP, antifuerza pública. Migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios, pues saber es lo mejor. Ver en nuestra posición que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Es la libertad, y es la libertad. Una vida y vivirla en libertad. Yo no quiero obedecer y que nadie me obedezca. Eso basta a mi principio, mi motivo y convicción. Ves, pues nuestra posición, que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Es la libertad, una vida y vivirla en libertad. Es la libertad, una vida y morir en libertad. Quando gli imbecilli sentono parlare di nulla creativo, si fermano ridacchiando solo al primo termine. Pensano che questo mondo, così come lo conosciamo, sia tutto ciò che abbiamo a disposizione, che racchiuda tutti i possibili, per cui il solo problema che si pongono è come riconfigurare il sistema, come parteciparvi in maniera strategica. Nel mondo a senso unico in cui viviamo, dove condizioni diverse sottostanno ad una sola legge, quella del potere e del denaro, non bisogna temere il vuoto, bisogna moltiplicarlo. Se gli anarchici hanno sempre pensato all'anarchia come ad un gigantesco arcipelago di comuni, è proprio perché in mezzo c'è un vuoto. Garanzia di libertà. Ognuno può cambiare comune, fondarne un'altra, vivere da solo. Non c'è più lo Stato, continente sotto il dominio di uno. Ci sono arcipelaghi del molteplice, dell'infinita differenza. Ecco perché sono così importanti le rotture con la normalità imposta, le crepe nell'omogeneità in questo mondo, e perché sono quelle a creare la possibilità che emerga tutt'altro. E questa è la grande opera di insubordinazione e sabotaggio che bisogna cercare di realizzare.